non ci sono riforme che non abbiano un impatto inizialmente impopolare. È giusto, esatto. Cioè, l'illusione, 8 anni degli ultimi 10 siamo stati governati da una persona che è convinta che senza l'applauso non si può far nulla. Parlo del giorno, non della notte. Bene, è un errore. Tutti i governi seri, adesso stiamo rivalutando Thatcher e Reagan, hanno rischiato una recessione nel primo anno e l'hanno anche avuta, devo dire, tutte e due, ma poi dopo l'economia è tornata a crescere più di prima. Allora, fare solo le riforme applaudite è tempo perso, dobbiamo saperlo. Non c'è possibilità di modificare la distribuzione del reddito e o l'impiego del reddito a favore della crescita se non tirando la cinghia inizialmente. Noi abbiamo sprecato occasioni, ovviamente, che erano gli anni positivi, pensiamo quando l'economia era ripartita bene nel 2006-2007, inizio 2008, lì erano da fare riforme che, certo, non puoi fare le riforme a favore della crescita nell'anno peggiore del dopoguerra che è stato il 2009.